Vi ho fatto alzare in piedi perché? Perché voglio ringraziarci tutti per questi 2 mesi straordinari che abbiamo avuto con l'evento guidato dai Jesus Revolution. Qui facciamo ancora un enorme applauso perché sono stati straordinari. Tutto il team dedicato a noi per 1 mese e 3 settimane, 2 mesi quasi. Però quello che abbiamo ricevuto, e voglio farvi stare in piedi perché? Perché io amo la mia Chiesa. Dovunque vado a predicare, delle registrazioni possono confermarlo, io comincio ogni mia predicazione nelle altre chiese dicendo io amo la mia chiesa. Gli altri storcono il muso, dicono ma vedi questa, scusate, voi avete la mia chiesa? No, io ce l'ho, quindi io amo la mia chiesa. No, continuo la predicazione dicendo che ognuno deve essere orgoglioso della propria chiesa. Però lasciatemi dire che la mia chiesa è la più bella di tutte, vero? È la tua chiesa la più bella di tutte? Io voglio ringraziare ogni persona che ha servito per 2 mesi o durante l'evento, quindi ora ci facciamo un applauso finale. Io voglio ringraziare tutte le donne che hanno preparato il cibo con costanza per così tanto tempo. Voglio ringraziare, vedi, sul cibo scatta l'applauso, cioè siamo proprio generosi. Voglio ringraziare tutti coloro che 2 domeniche fa sono venuti qui pensando di servire in un incontro canonico in piazza e si sono ritrovati a scaricare i bauli, a prendere pesi. Quindi facciamo un applauso a tutti gli uomini valorosi che hanno dato una mano. Voglio ringraziare tutte le persone che si sono dedicate a preparare i locali per accogliere il team di The Jesus Revolution e tutte le persone che hanno donato, prestato materassi, coperte, cuscini, fioriere, stendini. Quindi facciamoci un applauso a chi ha prestato e ha dato. E un ultimo applauso importante, voglio farlo perché come Chiesa siamo stati guidati da un'avanguardia. E questa avanguardia per noi sono gli Upside Down. E io voglio ringraziare tutti gli Upside Down per come si sono dati, non una volta a settimana, ma tutti i giorni ad organizzare evangelizzazioni, a prendere numeri di telefoni, a gestire gli street meeting in piazza, a testimoniare con coraggio, a prendere il microfono in mano senza averlo mai fatto e proclamare che Gesù sta tornando. Quindi facciamo un enorme applauso agli Upside Down che ci hanno guidati in maniera straordinaria. E non sono di parte, eh? Non sono di parte. E poi voglio veramente ringraziare Dio perché ci ha offerto la possibilità di conoscere delle cose nuove, di vedere una parte di Lui che è nuova. E prima di accomodarci, e vi racconterò come ho vissuto io questi 2 mesi, in particolar modo un'esperienza, voglio leggervi un verso. Mi ha colpito questo, dice in Efesini 1, dal verso 16 al verso 21. Leggiamolo insieme, se puoi leggilo proprio con attenzione. Dice questo: non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione. Che belle queste parole. Nella conoscenza di Lui e illumini, ascolta ora, gli occhi del vostro cuore, della vostra mente, affinché conosciate, e la parola usata è dianoia, chiaramente non è questo l'accento, ma questa è la parola usata, qual è la speranza della sua vocazione e quali grandezze e quali sono le ricchezze della gloria, della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto, dove? In Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina non solo in questa età, ma anche in quella futura, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo, sopra ogni cosa alla Chiesa. Io prego. Paolo dice agli Efesini, alla chiesa più bella che c'è nel Nuovo Testamento, io prego che gli occhi della vostra mente, del vostro cuore, siano illuminati affinché conosciate. Questa parola dianoia significa che un pensiero, un concetto, entri in profondità, proprio vada dentro e modifichi pensieri, emozioni, decisioni, sentimenti e Paolo sta pregando che una chiesa bellissima conosca Dio in profondità. Sai, quello che stiamo per vivere per i prossimi 28 minuti è conoscere Dio più in profondità di quando siamo arrivati. Vero? Chi vuole vivere una conoscenza più profonda nei prossimi 28 minuti? Amen. Vogliamo pregare insieme? Sì? Gesù, ti preghiamo che nella tua straordinaria potenza, che nella tua maestosa grandezza, che nella tua potente rivelazione, che nella tua straordinaria autorità, tu ti possa far conoscere da noi in profondità per cambiare i nostri pensieri, le nostre emozioni, le nostre decisioni, i nostri meccanismi mentali per farci camminare in un modo nuovo, diverso, vigoroso, forte, ripieno della tua presenza per cambiare questo mondo per la tua gloria, nel tuo nome Gesù. Amen. Amen. Ce ne possiamo andare a casa. Allora, no, possiamo accomodarci. Però ti posso dire che se non ti piace questo messaggio puoi ascoltare il messaggio di stamattina perché è stato straordinario, lo ha portato Noemi, sarà su YouTube domani mattina, quindi se non vi piace questo scegliete l'altro che è sicuramente migliore. Quindi andiamo domani a sentire Noemi. Io oggi non c'ero, mi sei mancata Noemi, sei troppo bella. Che cosa ti porti da questi due mesi? Io non lo so come l'hai vissuto tu, ma abbiamo avuto due mesi per strada, sotto la pioggia, sotto il vento, ormai abbiamo capito che abbiamo un novembre, non un maggio, basta lamentarci, io voglio il caldo, voglio sudare. Chi con me? Basta, voglio fare il cambio di stagione, voglio mettermi le scarpe aperte, finalmente sta arrivando, speriamo, lo confessiamo nel nome di Gesù, con questo tempo. In questi due mesi, oltre tutto il freddo che sti poverini si sono presi in via Santa Lucia, abbiamo avuto due mesi molto molto particolari. E io vi dico quello che io mi sono portata, oltre una grande esperienza, e lasciatemelo dire, una delle cose più belle che ho vissuto è la chiesa in piazza, tutta la chiesa in piazza, due domeniche fa. Eravamo tutti per strada, tutti a spingere le persone che non conoscono Gesù ad ascoltare questa rivelazione. Ma mi è successa una cosa strana. Dio mi ha detto questo: Sara, tu non sei un esecutore, Sara, tu sei un magnete. E su questo voglio predicare oggi, sull'essere magneti. Che cos'è un magnete? Sappiamo cos'è un magnete, vero? È una sostanza, un materiale che attira e che è in grado di attirare tutte le cose che contengono ferro. Il magnete può essere messo dietro a qualsiasi cosa e te la manterrà attirandola, ad esempio su un frigorifero, su una macchina, su qualcosa che è ferrosa. I magneti sono in grado di attirare dei corpi molto più pesanti del proprio valore stesso, del proprio peso stesso. Dio mi ha detto, Sara, tu sei un magnete. E ho detto, Signore, io non voglio attirare proprio nessuno. E Gesù mi ha detto, fai bene, perché tu non devi attirare proprio nessuno a te. Tu devi attirare tutti a me, all'Iddio incredibile. E vi racconto quello che mi è successo. Una delle tante cose che abbiamo organizzato, insieme a Luigi, infatti le occhiaie nostre sono vigorose, voglio ringraziare Luigi per tutto il lavoro incredibile che ha fatto per l'evento di Jesus Revolution. Grazie per chi sei, un esempio di servizio. E con Luigi abbiamo organizzato una fantastica conferenza stampa. Chi sapeva che c'era una conferenza stampa durante l'evento di Jesus Revolution, no? L'abbiamo pubblicizzata, quando l'abbiamo organizzata ci hanno detto guardate che non funzionerà perché non vi conosce nessuno, non verrà nessuno da voi. E noi abbiamo detto no, ma noi vogliamo organizzarlo, siete stardi noi. No, noi la vogliamo organizzare lo stesso. Ok, va bene, organizziamola il sabato alle 12:30, nella stessa sala. Il sabato è cominciato così. Nella sala in cui dovevamo entrare per organizzare la conferenza stampa c'era un matrimonio. Quindi la nostra conferenza stampa era slittata di un'ora, quindi alle 13:30, e nessuno ci aveva detto niente. Ma che vuoi che sia un'ora di ritardo? L'importante è che facciamo la conferenza stampa. Ci siamo organizzati, preparati, allora abbiamo preparato tutte le domande, il pastore si è messo dietro la bandiera tricolore, sembrava il sindaco della città, e abbiamo mandato email a tutte le testate giornalistiche e l'ultima email che ci arriva, l'ultima nostra speranza, perché tutti i giornalisti che avevamo chiamato hanno detto noi non veniamo. Poi mandateci il resoconto. Però speravamo in una giornalista, che era l'unica che doveva venire, ma alle 12:35, 5 minuti dopo l'orario in cui la conferenza stampa doveva iniziare, ci dice non posso venire. Per cui l'unica speranza c'era rimasta il sindaco. Beh, verrà lui almeno. E il sindaco in realtà è venuto, quindi eravamo noi, il team di Jesus Revolution, persone della Norvegia, organizzati, giacca, sai, tutto quanto, chissà, tipo media, se ci aspettavamo, tutto. E il sindaco, per una svista, è andato via. Quindi alle 13.30 finisce questo matrimonio, io e Luigi ci ritroviamo a chiamare il sindaco, il numero del sindaco, se vuoi, lo passano, e diciamo, signor sindaco, stiamo per cominciare la conferenza stampa, vi assicuro, non c'era nessuno, c'eravamo io, Luigi, mio marito, il pastore Mirko, il team Jesus Revolution, e speravamo il sindaco. E lui ci risponde, ah, ma io me ne sono andata a casa. Ah, che bello! E quindi abbiamo avuto una conferenza stampa straordinaria, non l'abbiamo fatta. Cioè il pastore Mirko si è fatto le foto dietro la bandiera, ma vi assicuro che non c'era nessuno. È stata una delle cose più fallimentari che io abbia mai vissuto, perché avevo molta aspettativa, speravo che i giornali parlassero dell'evento, chiaramente era la nostra prima volta, abbiamo fatto molti errori e quindi non abbiamo fatto la conferenza stampa. Per cui immaginate il mio animo nel tornare in chiesa. Sapete com'ero? Sai quelle persone che hanno la nuvoletta di fantozzi intorno e che non vogliono che nessuno li tocchi, perché se qualcuno li tocca urlano. Infatti mi hanno lasciata sola, cioè, anche mio marito se ne è andato più avanti, è meglio che la lascio perdere Sara oggi, ok? Quindi io sono venuta un po' da sola, ero l'ultima, e indovinate che cosa è successo? Mentre tornavamo vedo uno dei ragazzi dei Jesus Revolution, che non parlava italiano, che si ferma con una comitiva di preadolescenti, di ragazzi, potevano avere 13-14 anni. E così nella mia nuvola nera dico, fammi andare ad aiutare a sto poverino con l'inglese, così magari. E lui stava cominciando a parlare di Gesù ed era in una conversazione molto profonda già quando io sono arrivata. Per cui gli ho chiesto, hai bisogno di aiuto? Sì, Sara, traducimi. Quindi ho cominciato a tradurre. E questo ragazzo ha cominciato a parlare di Gesù in una maniera molto franca, molto schietta. I ragazzi volevano parlare in inglese, lo stavano prendendo in giro, però in realtà questo ragazzo diceva delle cose molto profonde. Ad un certo punto questo ragazzo ha chiesto, chi di voi ha una malattia? Vuole essere guarito ora in questo momento? E uno dei ragazzi ha preso coraggio e ha detto, guarda, io ieri sera non sono uscito perché avevo un dolore di denti incredibile, ho un dente che mi fa male. E questo ragazzo gli ha chiesto, posso pregare per te ora? E lui ha detto, sì, dai, proviamo, vediamo, sai, col solito sorrisino. E questo ragazzo ha cambiato faccia istantaneamente. Ha detto, mo, tipica espressione barese, perché ci segue dagli Stati Uniti, che significa, mamma mia, incredibile, che stupore, assurdo, mo, tutto quanto è mo. E lui ha cominciato a dire, ma io non potevo muovere, ma avevo un dolore incredibile, ora non ho più niente, ma è incredibile, che bello! E tutta la comitiva si è cominciata ad infiammare, ma è incredibile, io ho un dolore qui, io ho un dolore qui, io ho un dolore qui, io perdo i capelli. E ad un certo punto questo ragazzo ha detto, c'è qualcun altro che vuole ricevere, ora, che ha un dolore ora e da cui vuole essere guarito? Un altro ragazzo ha detto, sì, ho un dolore alla schiena da tanti anni, ho il plantare e non riesco a risolvere questo problema. E questo ragazzo gli ha detto, io credo che sia perché tu hai una gamba più lunga dell'altra e quindi questo ti porta il dolore, vero? E lui dice, sì, assolutamente, per questo porto il plantare. E allora questo ragazzo dice, posso pregare per te ora? E lui dice, sì, dai, proviamo. L'ha fatto sedere. Ha messo le gambe una accanto all'altra ed effettivamente le gambe erano una più lunga dell'altra e ha cominciato a pregare. Ora immaginate me con la nuvola nera che deve tradurre. E io che dicevo, la mia preghiera è stata questa. Signore, ti prego che il mio animo cattivo in questo momento non possa bloccare la tua mano dal compiere un miracolo ora. E sapete chi doveva tradurre la preghiera e quindi confessare quelle parole di fede? Ero io, perché dovevo tradurle in italiano. Quindi mentre Sebastian pregava, io dovevo pregare. E quindi non solo tradurre, ma pregare con la mia fede e dire, Signore, nel tuo nome, le gambe di questo ragazzo sono allungate in questo momento, nel tuo nome Gesù. Sapete com'è finita la storia? Le gambe si sono allungate istantaneamente. Cioè una gamba si è allungata, abbiamo visto proprio un movimento nella gamba e la lunghezza delle gambe era uguale dopo un minuto di preghiera. I ragazzi erano sbalorditi in quel momento, tutti, mamma mia, incredibile, devo chiamare mia madre, ma guarda le foto, Instagram, facciamo una foto, tutto. E io ero, wow, che bello, Signore, che cose incredibili puoi fare. E sai che cosa? È chiaro che so che Dio vuole guarire, è chiaro che so che Dio può guarire, è chiaro che ho visto tante volte Dio fare miracoli, è chiaro che ho visto tante volte Dio fare quel genere di miracolo, è chiaro che ho visto che io ho pregato tante volte per i miracoli e li ho visti accadere, ma quel giorno il mio spirito era talmente da un'altra parte che sai una cosa? A Dio non gli è interessato di dove stavo io. Dio voleva fare qualcosa di straordinario per quel ragazzo e Dio l'ha fatto anche tramite me, ma nella sua incredibile potenza. E questo è un insegnamento che mi porto, perché quando ti spingi, io sono uscita da quel momento, e quei ragazzi sono venuti poi la sera, stanno cominciando a venire, sono amici degli Upside Down, e quello che è successo è che Dio mi ha detto, hai capito perché dovevo fare la conferenza stampa? Solo per uscire da quella chiesa a quell'ora ed incontrare quelle persone. Dio voleva che in quel momento accadesse quella cosa. E per me è stata una rivelazione straordinaria, che Dio ha sempre cura, no, non che ha cura, Lui ha chiara qual è l'immagine più grande di quello che sta succedendo, qual è lo scopo più grande, qual è la fotografia più grande di quello che sta accadendo. E io sono talmente piccola dal guardare a quel dettaglio lì, ma Lui ha la sua incredibile autorità, la sua supremazia su tutto quello che accade. Quindi noi dobbiamo solo stare dentro Lui e compiere quello che Lui ha previsto. E il verso di oggi dice questo, voglio leggerlo con voi. Luca 4, dal verso 16 al verso 21. Siete ancora con me, chiesa? Eh sì. Si recò a Nazareth, dove era stato allevato, e come era solito, entrò in giorno di sabato nella sinagoga. Alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia, e aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto «Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri». Mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri, il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore. Poi chiuso il libro e resolo all'inserviente, si mise a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Ed egli prese a dire, oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. Incredibile. Gesù entra a Nazareth, nel paese dove è stato cresciuto, entra nella sinagoga dove era solito andare prima di cominciare il suo ministero, rientra in un paese che lo aveva rigettato nel suo ministero, aveva già compiuto grandi miracoli fuori da Nazareth e la sua fama cominciava a spargersi incredibilmente in tutte le città vicine, ma lui sceglie di tornare a Nazareth. In un paese, in un posto di umiliazione dove era stato rigettato, ma torna ripieno di Spirito Santo, si alza in piedi e comincia a parlare. Che cosa dice Gesù? Gesù non usa delle sue parole, Gesù legge uno dei passi di Isaia, Isaia 61, conosciamo bene questo verso. E la cosa incredibile è che lo stia leggendo Gesù ed è incredibile quello che lui dice dopo. Cioè, davanti allo stupore di tutti, Gesù dice, questa scrittura si sta compiendo ora davanti a voi. Cioè, immaginate il momento, entrate nella mia mente visiva un attimo. Gesù, lui, la parola incarnata, sta leggendo la parola e della parola lui dice, di questa parola io sono il compimento, per cui shbam. Cioè, se fosse Beyoncé, Gesù farebbe così. Come on, hai capito? Cioè, io sono quello che è stato unto, che va e libera i prigionieri e questa parola si sta compiendo ora, ok? Cioè, io me l'immagino un po' così, no? Com'è questa cosa che fa anche Obama, che prende e lancia il microfono per terra? Cioè, del tipo, tutto quello che dobbiamo dire, lo abbiamo detto, se non lo capite ora, basta. Cioè Gesù ha cominciato a dire, ehi, a chi era lì da tempo, a chi era solito andare nella sinagoga, a chi era solito ascoltare nella sinagoga nel giorno di sabato un insegnamento sulla parola di vita pratica, Gesù prende quel pezzo della parola e dice: io sono il compimento di questa parola. Gesù è unto dal Signore, ripieno di Spirito Santo, equipaggiato da Lui e mandato per predicare il Vangelo ai poveri e per mettere in libertà i prigionieri, dare la vista ai ciechi, liberare gli oppressi e proclamare l'anno accettevole del Signore. Lui è l'adempimento di questa parola. Sai perché? Sai come rispondi? È vero, perché è sulla tua pelle. Gesù è venuto nella mia e nella tua vita per liberare me che ero prigioniera, me che ero oppressa, me che ero cieca, me che avevo bisogno di speranza. Lo puoi dire anche tu? Gesù è venuto e Lui è pronto ad incontrarti e ci ha incontrato mentre eravamo ciechi, mentre eravamo oppressi, mentre eravamo prigionieri. Lui è l'adempimento di questo. E ad un certo punto tu puoi dire: ok Sara, è grandioso, ma che cosa c'è di nuovo? C'è di nuovo che in Giovanni 20:21 Gesù ha detto: voi farete delle opere come le mie e più grandi delle mie. Cominciando dal grande mandato in tutto il Nuovo Testamento, quello che Gesù fa è ricordare ai discepoli e poi a tutta la Chiesa, che la Chiesa, i discepoli prima e tutta la Chiesa, noi siamo il secondo tempo, il terzo tempo, la continuazione di quel mandato. Che cosa ci sto dicendo? Il Signore Gesù sta parlando oggi al nostro cuore, ricordandoci che Lui ci ha unto, che Lui ha messo il Suo Spirito su di te, che Lui ti ha unto per, che Lui ti sta mandando a. La stessa chiamata che era su Gesù, Lui l'ha lasciata a noi, l'ha riversata sui nostri destini. Perché? Perché questo mondo possa tornare a Lui. Quindi tu sei unto, lo Spirito del Signore è su di te e tu sei mandato a predicare. Vediamo meglio in dettaglio questo. Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto. Mi metti la slide delle... Vediamolo pratico. Io ho bisogno di sintetizzare con le cose, no? Quindi guardiamo insieme questo. Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto. Che cosa vuol dire? Lo Spirito di rivelazione, di sapienza, è su Cristo, ma lo Spirito Santo è su di noi dal momento in cui glielo chiediamo e Lui ci riempie con il Suo Spirito. Dal momento in cui tu sei chiamato figlio, tu puoi essere riempito, puoi ricevere il battesimo nello Spirito Santo ed essere riempito dal Suo Spirito. E cosa fa il Suo Spirito? Il Suo Spirito ci unge. Che significa ungere? Non con l'olio, anche con l'olio, no? Quando hai le mani unte di olio. No, no, ma l'unzione viene dall'Antico Testamento e veniva fatto per... designare qualcuno, per scegliere qualcuno, per mettere da parte qualcuno e consacrarlo per uno specifico servizio. L'unzione veniva fatta nell'Antico Testamento proprio con l'olio, ma nel Nuovo Testamento, quello che è scritto nel Nuovo Testamento è che l'unzione è sparso sui figli di Dio che sono riempiti di Spirito Santo. Tu sei riempito e sei unto. Ti piace questo? Lo sapevi questo? A volte me lo dimentico. Gesù ti ha riempito, ti ha unto e ti ha mandato. E questo vuol dire che tutto il mandato che ha per te, te lo ha dato perché ti ha dato delle cose. Guarda qui. Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto. E quando lo Spirito Santo ci riempie, ci unge, vuol dire che tutti quei doni, tutta la capacità, tutta la franchezza, tutto il frutto dello Spirito, ma anche i doni dello Spirito Santo, vengono in noi, vengono su di noi. E quindi questo ci riempie per fare quello che Dio ci chiede di fare. Per cui quando ti senti piccolo, non pronto, inutile, devi ricordarti queste parole, perché Dio ha messo il suo spirito su di te e lui ti ha unto. E non ti ha unto perché sei bello, non ti ha unto perché gli piaci, non ti ha unto perché ti vesti bene o perché sei famoso, no, ti ha unto perché il suo amore è in te e lui ha messo il suo spirito in te e ti ha unto per mandarci. Dove ci manda? Ad evangelizzare i poveri. Oh, evangelizzare i poveri, evangelizzare la parola che è usata qui, non è predicare il Vangelo, cioè, voglio spiegarlo meglio, non è dire, trovare qualcuno e dire, ehi Antonio, lo sai che Gesù ti ama, la tua vita può cambiare completamente, Gesù è venuto su questa terra per prendere i tuoi peccati e per morire sulla croce, ed è morto sulla croce per darti una nuova vita e per darti una vita eterna, quindi se tu credi in lui, la tua vita può cambiare in lui. Ti piace? Sì. Non ti piace? Ok. Ci vediamo la prossima volta. No, no, questo verbo significa rendere effettivo il Vangelo. Cioè non parlare della buona notizia e basta. E quindi attenzione a dire, io predico il Vangelo su Facebook perché ho scritto Giovanni 3,16 sul mio status e quindi pensi che stai evangelizzando tutti i tuoi 3.000 amici. Perché non è così. O non è che vai e metti una foto su Instagram di mentre sei in chiesa e dici io adoro Gesù che è anche per te e pensi che stai evangelizzando, perché non è così. Ma non è neanche vero che noi andiamo per strada, diamo un volantino e vieni all'evento e pensiamo che stiamo evangelizzando qualcuno, perché quello è un invito e lo fanno anche per le discoteche. Ma evangelizzare qualcuno significa rendere il Vangelo effettivo, visibile, evidente. Cioè, che cosa vuol dire? Ehi, Gesù è morto per te. Antonio, Gesù è morto per te. E Gesù è morto anche per me, lo ha fatto per me. E ti dico perché l'ha fatto per me. E la tua vita può veramente cambiare. Anzi, hai ora dei problemi, vogliamo pregare per questo. Hai ora una malattia, vogliamo pregare per questo. Ehi, io ti dico che ci può essere speranza per te. È chiaro che cambia predicare il Vangelo e evangelizzare. Chiesa, noi siamo chiamati non ad invitare ad un evento. Sappiamo questo. I volantini sono finiti. Non abbiamo più la scusa di andare per strada ad invitare ad un evento. Noi siamo chiamati a rendere il Vangelo effettivo, a rendere il Vangelo visibile, a rendere il Vangelo pratico, evidente. In chi? Nei poveri. Evangelizzare i poveri. Chi sono i poveri? I poveri sono coloro che hanno uno status sociale di povertà ed era la categoria di persone a cui le persone che erano nella sinagoga dove Gesù stava parlando non si avvicinavano perché erano una categoria a parte. Ma nell'Antico Testamento viene usata la parola poveri anche come sinonimo di umili. Ce lo ricordiamo, Gesù l'ha usata nel Sermone sul Monte. Beati gli umili di cuore. Altre traduzioni dicono i poveri di cuore. Che cosa vuol dire? Che cosa è l'umiltà? È quando la coperta dell'orgoglio viene tolta. È quando hai il cuore pronto. È quando sei un terreno in cui la parola entra. E quindi che cosa sta dicendo Gesù? Io sono mandato a parlare di Dio, io sono mandato a predicare il Vangelo a chi? A chi lo vuole ascoltare. A chi è pronto? A chi è pronto per fare un'azione di conseguenza? Però lasciatemi dire una cosa, non cerchiamo questa scusa. Io tante volte guardo la gente per stare e dico, no, quello è pronto. No, quello proprio no. Quello sicuramente non è pronto. Non so, capita anche a voi. E poi magari ci parli e dici, mamma mia, è così pronto. Non categorizziamo noi. Lasciamo che sia lo Spirito Santo a guidarci verso le persone che sono pronte. E poi quando semini, quando predichi, il Vangelo opera. Opera e le persone diventano pronte. Forse dopo 20 anni, forse dopo 2 giorni, ma le persone diventano pronte. Allora qui dice Gesù, per evangelizzare i poveri, ascolta ora, mi ha mandato per, sei riempito, sei unto, sei scelto, sei mandato, sei equipaggiato per chi? Per cosa? per dare il volantino per strada. No! Non è questo. Ma Dio ci ha chiamato ad evangelizzare i poveri e mi ha mandato... Ruben, vattene. È troppo presto. No, vabbè, rimani, ti voglio bene comunque. Però vai cauto, ok? Vai tranquillo. Fai una cosa veloce, ma così stai con noi. Mi piace che sta con noi Ruben per un'altra mezz'ora. Scusami, Ruben, ti voglio bene. Però sei venuto veramente... Oh, raga, ma mi avete fregato il tempo da lì. No, va bene, ok. Mi ha mandato per evangelizzare, per annunciare la liberazione dei prigionieri, il recupero della vista ai ciechi, rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno accettevole del Signore. Annunciare la liberazione a chi? Ai prigionieri. Queste sono categorie nella nostra testa. Prigionieri. Chi è entrato mai in una prigione? Io sto pregando che Dio apra le porte per una prigione, perché voglio andare a predicare in una prigione fisica. Ma quanti prigionieri abbiamo intorno? E non serve moltissimo. Pensa a come eri tu. Pensa a chi eri tu. Non eri forse un prigioniero? Quanti prigionieri abbiamo intorno? Prigionieri di dipendenze, dal gioco, dall'alcol, dai medicinali, prigionieri dalle paure, prigionieri nell'ansia, prigionieri nella religiosità, prigionieri nella pornografia, prigionieri del peccato, prigionieri delle usanze, della tradizione, prigionieri di una malattia. Dio ci chiama a portare, a mettere in libertà i prigionieri. Ti piace? Sì? Secondo, il recupero della vista ai ciechi. Quanti ciechi vedi in giro? Fisici. Gesù ha sempre guarito anche il fisico. Gesù ha fatto miracoli anche nel fisico. Ma quanti ciechi anche abbiamo intorno a noi? Quante persone cieche, ottenebrate dall'idea che Dio è distante, che Dio è un Dio che punisce, che Dio non è interessato, che quante persone cieche sulla propria identità stiamo vivendo in questa fase della società, che non sanno chi sono e che si inventano chi sono senza sapere veramente chi sono nella vera identità. Quante persone cieche abbiamo intorno a noi? Ancora, a rimettere in libertà gli oppressi. Chi sono gli oppressi? Sono le persone appesantite, sono le persone che camminano con un carico da 90 sulle spalle. Stai pensando a chi vedi per strada? Stai pensando alla tua passeggiata, ai tuoi amici su Facebook, ai tuoi amici a scuola, a quelli che incontriamo sul posto di lavoro? Stai pensando a quante persone oppresse ci sono? Quante persone appesantite, stanche, affaticate per proclamare l'anno accettevole del Signore. Cosa vuol dire questo? Gesù sta facendo riferimento sia alla sua seconda venuta, ma Gesù sta facendo riferimento anche all'anno del Giubileo. L'anno del Giubileo nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo era celebrato in ogni tot anni. Per un motivo, in quell'anno si celebrava la bontà di Dio e veniva celebrato in una maniera straordinaria, cioè le persone che erano schiave venivano liberate, le persone che avevano dei debiti, quei debiti venivano condonati, le persone che erano in prigione venivano proprio liberate, venivano fatte uscire dalle prigioni. Ecco che quando Gesù parla dell'anno accettevole, vuol dire che sta parlando di persone che non hanno speranza e che aspettano speranza. Sono persone che sono chiuse nelle loro circostanze, senza una visuale, senza una possibilità di guardare a quello che è il loro futuro. Eppure Gesù sta dicendo: tu devi andare a dire a queste persone che c'è speranza, che sta per arrivare la speranza, che i tuoi peccati possono essere perdonati, che i tuoi debiti possono essere condonati, che puoi venire fuori dalla prigione. Perché? Perché io sono il Signore, io sono unto, il Signore mi ha equipaggiato per... Incredibile. Questa è la chiamata che Dio ha su ognuno di noi. Poveri, prigionieri, ciechi, oppressi, senza speranza. Il tuo vicino in quale categoria è? Il tuo datore di lavoro in quale categoria è? il tuo compagno di banco, il tuo professore, in quale categoria è? Chi incontriamo per strada, in quale categoria è? Il tuo amico di Facebook, in quale categoria è? Tu in quale categoria eri? O in quale categoria forse sei ancora? Perché magari sei qui e sei venuto in prigione e sei venuto oppresso, sei venuto carico di un peso da 90, sei venuto cieco. Gesù è colui che libera, che guarisce, che redime, che perdona, che mette in libertà, che parla vita, che parla speranza. Questo è il Gesù nel quale noi crediamo e nel quale oggi noi possiamo avere una viva conoscenza, una profonda conoscenza di Lui, una conoscenza di Lui che ci influenza talmente tanto che possiamo essere da Lui mandati. Ma Sara, ma devo stare bene per essere mandato? Sara, devo non avere il mio momento no per essere mandato? Chiesa, noi siamo mandati, punto. Quando Dio vuole fare delle cose, Dio le vuole fare, stop. Allora basta metterci davanti, basta pensare, ma non ho ancora fatto il battesimo, ma non ho ancora lasciato quella cosa, ma non ho ancora studiato quel libro, ma non so ancora predicare, ma lo Spirito del Signore è su di te e Lui ti ha unto perché Lui ti ha mandato per evangelizzare i poveri, per mettere in libertà i prigionieri, per mettere in libertà gli oppressi e per dare speranza a chi non ce l'ha. Amen. Dio ci chiama ad essere magneti, ad essere persone che attirano a chi? A noi? Non serve. Dio ci ha chiamati ad essere magneti e ad attirare persone a Gesù, a Lui, a chi Lui è, mediante la potenza che opera in noi, ma Lui fa i miracoli. Mentre eravamo lì a pregare, ho pensato questa cosa. E se non succede? Io veramente ho poca fede, ho chiesto perdono a Dio e lo dico pubblicamente. Ma lì, mentre eravamo lì a pregare, ho detto, mamma mia, se non succede, che brutta figura. E Gesù mi ha detto, e perché non dovrei farlo? Cioè, immagina una cosa, io sto parlando di Gesù. Io sto parlando di Lui perché voglio che Lui venga proclamato Signore in tutto il mondo. E allora gli chiedo di intervenire in favore di una persona, in favore di un oppresso, di un cieco, di un prigioniero. Potrebbe Gesù tirarsi indietro dal manifestarsi? Perché? Perché non dovrebbe? Noi abbiamo un Dio buono. Lui è sempre al controllo. Lui è sempre in movimento, Lui vuole sempre il tuo bene, anche se non è in quel momento, o anche se non lo capiamo, o anche se è diverso da come noi lo abbiamo pregato, ma Lui vuole sempre il tuo bene, sempre, sempre, sempre. E allora a chi ci dice, ma come mai muoiono di fame tanti bambini in Africa perché Gesù non fa niente? Noi abbiamo una risposta per questo. Noi abbiamo una risposta per chi non ha speranza. Il nostro Gesù è un Gesù buono. Il nostro Gesù è un Gesù buono, il nostro Dio è un Dio che ha dato tutto se stesso per liberare i prigionieri, ridare la vista cieca, ai ciechi, mettere in libertà gli oppressi e dare speranza a chi non ce li ha. Perché non dovrebbe intervenire? Vogliamo alzarci in piedi? Voglio concludere con questo. Dio ci ha chiamato ad evangelizzare i poveri. Chiesa, sai come mi hanno evangelizzato? Qualcuno mi ha parlato di Gesù. Poi ho trovato qualcun altro che mi ha fatto leggere la Bibbia. E poi ho trovato tante persone che hanno pregato per me. Ma poi ho trovato qualcuno che mi si è messo accanto e mi ha spiegato la verità della parola. E mi ha spiegato il carattere di Gesù. E mi ha spiegato che Gesù aveva da fare con me delle cose che io non potevo immaginare. non mi ha dato un volantino, non mi hanno dato un volantino e basta. Mi hanno parlato di Gesù, mi hanno fatto vedere con la loro vita quello che Gesù poteva fare, mi hanno accompagnato in un percorso per farmi vedere quello che Gesù poteva fare ancora con me. Sono venuti con me in chiesa, sono venuti con me al corso al P1, sono venuti con me al P2, mi hanno chiamato per un caffè, mi hanno fatto stare nel gruppo, mi hanno mandato un messaggio, hanno pregato per me, mi hanno mostrato con la loro vita. Chiesa, noi siamo chiamati a mettere in libertà gli oppressi, a proclamare libertà a chi è in prigione, a ridare la vista ai ciechi e a portare speranza, e non possiamo pensare di farlo con un volantino. Noi dobbiamo evangelizzare le persone, noi dobbiamo portare questo Gesù. Come? Lo puoi portare e dire, beh, oh, te, e te ne vai. Noi dobbiamo portare questo Gesù e far crescere questo Gesù negli altri e portare gli altri a miracolo su miracolo, a crescita su crescita. Chiesa, noi siamo madri e padri. Ho detto una volta, noi siamo ostetriche. Noi vediamo nascere persone, però noi siamo anche madri e padri. E tutte le persone che abbiamo visto o che stiamo vedendo, ehi, se sei qui e sei stato contattato per l'evento, se sei qui per le prime volte, per piacere vieni a conoscerci, perché io e tutta la Chiesa ha voglia di farti vedere chi è Gesù, passo dopo passo. Noi non vogliamo darti un volantino, non vogliamo darti un evento, un'esperienza oggi straordinaria, noi vogliamo che tu conosca Dio ogni giorno, così come è stato per noi. Chiesa, parlo a chi è qui da tanto tempo, rimettiti a fare il madre, rimettiti a fare la madre e il padre, rimettiti a discepolare, rimettiti a far vedere chi è Gesù, non a dare il volantino, non a fare il balletto, ma fai vedere chi è Gesù con costanza. Portati persone nella tua crescita, fagli conoscere Gesù con costanza, con te. Prendi le persone, invitali nei gruppi. Oh, che belli che sono i gruppi! Abbiamo la possibilità di invitare le persone nei gruppi e far vedere lì chi è Gesù in una maniera pratica. Sempre insieme, torna a discepolare chiesa, torna a pregare per guarigioni, torna a compiere miracoli per strada, torna a compiere miracoli nelle nostre case, torna a discepolare, a far crescere una nuova generazione, torna ad essere madre e padre. Chiesa, ora abbiamo avuto una grande raccolta, ora è il tempo di far crescere questa raccolta, di curare queste piantine e di farle diventare degli arbusti, degli alberi robusti piantati in chi? Noi? No! Siamo magneti per attirare a noi? Siamo magneti per attirare a Cristo. Amen? Amen? Se non ti è piaciuta la predica, puoi ascoltare quella di stamattina. Se non ti è piaciuto, sei benvenuto. Neanche a me piace questo messaggio, però Dio mi sta rimbombando nelle orecchie. Lo Spirito del Signore è su di te. E io ti ho unto, figlia mia, io ti ho unto, figlia mia, io ti ho unto, figlio mio, io ti ho unta, figlia mia, io ti ho unto, figlio mio. Il mio spirito è su di te, io ti ho unto. Questo ti dice il Signore. Perché sono mandato per evangelizzare i poveri. Cosa devi fare tu? Cosa devi fare tu? Cosa devi fare tu? Evangelizzare. Portare Gesù. Amen. Vogliamo pregare. Puoi prendere un attimo per pregare per te stesso. Prega un attimo per sapere quello che Dio sta veramente rivelando al tuo cuore, per confermare questa parola. E ti stai facendo domande, Signore, hai unto veramente me? Sì, il Signore ha unto veramente te. Il Signore ha unto veramente te. E nella sua unzione lui ti dà potenza per rinunciare al peccato, per cui lui ha scelto veramente te, lui ha scelto di mettere il suo spirito in te, e nella stessa maniera avrai potenza per rinunciare a quelle cose che non ti fanno sentire unta, che non ti fanno sentire unto, che non ti fanno sentire scelto. Gesù, grazie perché tu ci hai unto. Spirito Santo, tu ci hai unto. Spirito Santo, grazie perché il tuo Spirito è in mezzo a noi. Spirito Santo, grazie perché tu sei qui. Tu sei qui, Spirito Santo, e tu ungi, tu liberi, tu guarisci, tu redimi, tu spezzi, tu proclami libertà. Grazie perché rimetti vista ai ciechi. Grazie perché guarisci i cuori rotti. Grazie perché liberi dalle prigioni. Grazie Gesù perché tu fai tutto questo. E Spirito Santo, tu ci stai mandando. Tu ci stai mandando. Tu ci stai mandando ora a vivere un nuovo tempo. Un nuovo tempo di raccolta, un nuovo tempo di libertà, un nuovo tempo in cui andiamo e predichiamo il tuo potente Vangelo, e non solo lo predichiamo ma lo facciamo vedere, e non solo lo facciamo vedere ma lo facciamo crescere, e non solo lo facciamo crescere ma mandiamo ulteriormente persone per la tua gloria e per il tuo regno. Gesù, grazie che chiami la nostra Chiesa, che stai chiamando in questo momento un'intera generazione ad essere madri e padri di nuovi tuoi figli. Grazie Gesù perché ci chiami ad attirare persone a te, ad attirare verso te, che sei colui che compie queste parole. Gesù, come ti sei alzato nella sinagoga e hai detto l'adempimento di queste parole sta accadendo ora davanti ai vostri occhi, Gesù, grazie perché quelle parole sono vere, perché tu sei vero e tu adempi le tue promesse, tu adempi il tuo mandato, perché tu sei fedele a te stesso, tu mandi la tua Chiesa. Tu mandi la tua Chiesa. E Gesù, grazie perché la tua Chiesa grida, grida venga il tuo regno, grida venga il tuo regno. E sia fatta la tua volontà, Gesù, grazie perché la tua Chiesa è mandata e ripiena, equipaggiata e potente nel tuo nome, Gesù. Grazie Gesù per questo mandato che hai su di noi, che hai messo mentre non lo meritavamo, mentre non sapevamo di poterlo ricevere, ma tu l'hai messo. Tu l'hai messo, Signore. Io ti chiedo di alzare le tue mani in questo momento e di adorare Dio e di chiedere a Lui che il suo spirito possa riempirti completamente, che la sua unzione possa essere riversata su di te in maniera abbondante, che il suo spirito ti possa ricolmare o colmare per la prima volta con i suoi doni, e che tu ti possa sentire mandato per evangelizzare i poveri, per liberare gli oppressi. Il Signore in questo momento ti sta mostrando oppressi e prigionieri e ciechi, sta facendo vedere chi sono. Ecco che ricevi l'unzione di Dio. Alza le tue mani, adoriamo Dio insieme, prendiamo ancora un momento per adorare Dio insieme. Spirito Santo è qui, e forse tu sei qui e hai bisogno di un miracolo, e hai bisogno di una liberazione, e hai bisogno di recuperare la vista, e hai bisogno di essere alleggerita da questo peso. Ecco, ora vogliamo sperimentare questo Dio, ora, velocemente, vogliamo sperimentare questo Dio. Quindi se sei qui, io so che molti di noi hanno ricevuto un miracolo durante tutta questa campagna. Se hai ricevuto un miracolo è perché ora sei pronto per andarlo a pregare per qualcun altro, ok? Quindi io faccio appello a tutti coloro che sono stati guariti, che hanno ricevuto speranza, che hanno ricevuto libertà, che hanno ricevuto la vista, di ora mettersi alla ricerca dello Spirito Santo e chiedere: Signore, da chi devo andare? Con chi posso pregare? Con chi posso andare a pregare per libertà? In questo momento, forza Chiesa, chiedi. E per chi è qui e dice: Sara, io ho veramente bisogno di essere alleggerita. E io sentivo proprio forte, mentre stavamo adorando prima, sentivo la parola lutto. E forse hai bisogno di essere alleggerito da questo peso. Forse c'è un lutto che ti porti e che continua ad essere sulle tue spalle. Se hai bisogno di una guarigione fisica, se hai bisogno di una parola di incoraggiamento, ti prego, alza la tua mano. Ora, posso vedere chi ha bisogno di preghiera? Ok, alziamo le nostre mani. Bene, Chiesa, andiamo, corriamo, ripieni di Spirito Santo. Non lasciamo nessuno con le mani alzate da sola, ma chiediamo che il suo spirito possa guidarci verso parole di incoraggiamento, verso miracoli. Vedo che già qualcuno si sta muovendo. Forza, esci dalla tua fila e vai ad operare un miracolo, vai a dare speranza, vai a pregare perché ci sia un cambiamento, perché le prigioni possano essere rotte. Forza Chiesa, andiamo, mentre ancora adoriamo, ma non rimaniamo nei posti. Vai, vai, chiedi rivelazioni a Dio.